ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. Decima puntata. Commensali parlavano di Niculino il cieco. Dice che da qualche tempo a questa parte gli pare in certi giorni di vedere come un barlume lontano. Fino all'età di 3 anni non è stato cieco, lo è diventato dopo una grave malattia. Ultimamente è andato alla festa del Redentore a Nuoro e crede di riacquistare lentamente la vista. Non è vero, Niculino? Il cieco, per tutta risposta, si fece il segno della croce. «In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo», esclamò Donna Rachele, segnandosi anche lei. «Dio è onnipotente e può tutto. Sia sempre lodato il suo santo nome». E batté la mano sulla spalla di Niculino, quasi per significargli che anche lei fino a quel momento era stata come cieca, mentre adesso cominciava a intravedere un lontano barlume di speranza. Sì, ella ricominciava a sperare nella bontà umana, e questa speranza era la cagione della sua gioia. Avrebbe voluto avvicinarsi al lettuccio del vecchio asmatico e dire: «Zu Adekerchi, ti ringrazio, non perché ci serbi la casa e l'ultimo pezzo di terra, ma perché ti dimostri buono, mentre tutti ti credevamo malvagio». Ma Don Simone la guardava ed ella capiva che doveva tenere il segreto, e lo tenne. Ma durante il pomeriggio prodigò 1000 attenzioni al vecchio asmatico. Egli ne indovinò la causa e si irritò maggiormente, e la sua irritazione inasprì quella di Annessa. La giornata diventava sempre più cupa e triste. Il tuono rumoreggiava in lontananza, dietro la montagna, livida e nera. Qualche cosa di angoscioso e di tragico gravava nell'aria. Finito il pranzo, i poveri se ne andarono. Tutto rientrò nell'ordine e nel silenzio melanconico di prima. Solo, di tanto in tanto, zio Zua gemeva. E se Annessa attraversava la camera, quel gemito diventava simile a un ringhio. Ella lavorava e taceva. Rimise le stoviglie, le posate, spazzò la cucina, il cortile, poi andò alla fonte con l'anfora sul capo e si fermò a lungo davanti ai paracarri, guardando le lontananze della valle. Sotto il cielo grigio, solcato di nuvole d'un nero terreo, la valle si sprofondava come un precipizio. Le rocce sembravano pronte a rovesciarsi le une sulle altre. Il bosco della montagna si confondeva con le nubi sempre più basse. E Paolo non veniva. Annessa soffriva un terribile mal di capo. Le pareva che l'anfora fosse una delle rocce che nel suo capogiro ella vedeva quasi muoversi e precipitare, e il tuono le risuonava dentro la testa con un rombo continuo. Stava per avviarsi di nuovo quando vide Santus, il pastore, e altri 3 uomini e un fanciullo avanzarsi sullo stradale. Aveva la febbre o il fanciullo che si avvicinava, preceduto da 2 vecchie, seguito dal padre e da un altro paesano, era veramente il figlio smarrito di Santus? La curiosità le fece per un po' dimenticare il suo affanno. Si tolse la brocca dal capo, la depose sul paracarri e attese. Il gruppo si avvicinava. La voce di Santus, alta e allegra, arrivava sempre più distinta nel silenzio dello stradale solitario. «Per Dio, lo conduco subito dal brigadiere. Poi, se vuole scappare, scappi pure e vada al diavolo». Il fanciullo taceva. Annessa guardava e non si stupì quando Santus gridò: «Annessa, oh, Annessa, ecco qui l'uccellino scappato. Lo vedi? Guardalo bene. Anche tu puoi dire chi è lui. E dove sei stato tutto questo tempo? Ella domandò quando i paesani le furono vicini. Il ragazzetto la fissò coi suoi occhi azzurri, cattivi, ma non rispose. Abbiamo incontrato Don Paolo, le fece sapere il pastore. Stanotte non tornerà in paese, non lo aspettate. Annessa, che si rimetteva sul capo la brocca, vibrò tutta e per nascondere il suo turbamento lasciò che i paesani passassero oltre. Ma le parve che Santus si voltasse e si fermasse poi ad aspettarla. Egli deve dirmi qualcosa, pensò raggiungendolo. Gli altri precedevano di qualche passo. Dove hai veduto Don Paolo? Ella domandò sottovoce. Nei salti di Magudas, era diretto a quel paese. Anzi, mi diede un biglietto per te, per darlo a Don Simone, forse, aggiunse il pastore, che era un buon uomo, ma non senza malizia, e le mise in mano il biglietto che aveva destramente levato dalla borsa della cintura. Annessa strinse nel pugno il pezzetto di carta. Una brace non l'avrebbe scottata di più. Il pastore parlava e la non sentiva. Sentiva solo il rombo dei tuoni in lontananza e le pareva che dentro il pugno stringesse non un pezzetto di carta, ma un cuore pulsante, un'anima che urlava e spasimava. Che avveniva? Paolo non le aveva mai scritto. Perché le scriveva adesso? Una buona o una cattiva notizia? Ella non dubitò che un istante. La notizia doveva essere triste ed ebbe paura di apprenderla troppo presto. Una donnina seduta a cavalcioni su un cavallino bianco raggiunse la comitiva e, riconoscendo il figlio di Santus, cominciò a dar gridi di sorpresa e di gioia. «Eccolo, sì, è lui! Oh, come sono contenta! No, non era possibile che un abitante di Barunei avesse ucciso il suo figliolo. Il nostro paese ne sarebbe rimasto infamato. Anche nelle canzoni dei girovaghi sarebbe stato nominato infamato il nostro Barunei». «Sta zitta, Napica!» gridò Santus. «La tua lingua sembra un coltello». Annessa si fermò, come s'erano fermati gli altri, ma sentiva solo il rombo del tuono e dentro il pugno la carta fatale. Null'altro esisteva per lei. Gli altri si mossero, attraversarono il paese. Ella li seguì. Si trovò in mezzo alla folla che a poco s'era radunata intorno al pastore. Stette ad ascoltare. Sorrise. Una fiamma improvvisa, un tuono fortissimo, alcune gocce di pioggia fecero correre la gente di qua e di là. Ella si trovò quasi sola in fondo alla straducola che conduceva alla casa dei suoi benefattori e s'avviò correndo. Donna Rachele era andata con Rosa alla novena. Solo il gemito del vecchio asmatico, quel giorno più cupo e agitato del solito, animava la casa deserta. La luce metallica dei lampi non dava ogni tanto la camera buia, l'andito silenzioso. Annessa depose la brocca, sempre stringendo nel pugno il biglietto, poi uscì nel cortile e lesse, a stento, il triste messaggio. Ricordati ciò che ti dissi prima di partire. Un lampo terribile, un tuono fragoroso riempirono di terrore il cielo. Ella credette che il fulmine fosse piombato sopra di lei e gemette, come gemeva il vecchio. Egli non ha trovato, egli si ucciderà questa volta è davvero. Fra due, fra tre giorni, quando non ci sarà più speranza, egli morrà. È così? Un nuovo rombo formidabile, il bagliore azzurro d'un lampo, un altro tuono ancora riempirono il cortile di luce e d'orrore. La pioggia scrosciò furiosa. Ella rientrò in cucina, appoggiò la fronte alla porta chiusa, pensando che se Paolo a quell'ora viaggiava doveva bagnarsi tutto. E per alcun tempo questo pensiero l'inquietò più che la minaccia del biglietto. Un tremito nervoso l'agitava tutta. Le pareva di sentire la pioggia scorrerle lungo le spalle, bagnarle la schiena e tutta la persona giù, giù, giù, fino ai piedi. E non poteva gridare, non poteva piangere. Un nodo isterico le stringeva la gola. Fuori cresceva la furia del temporale, la pioggia batteva contro la porta, i tuoni rombavano con ira nemica ed ella, con la testa contro la porta, pensava a Paolo smarrito nella tristezza della sera tempestosa, percosso dall'ira cieca dell'uragano, e le pareva che anche la natura oramai si unisse alla sorte, agli uomini, per incrudelire contro il disgraziato. Fuori, dentro, nella casa, intorno alla casa, nella vastità dei campi e dello spazio, un esercito di forze nemiche si divertiva a perseguitare un essere solo, un uomo debole e infelice. Nessuno lo aiutava, nessuno lo difendeva, neppure la madre, che non si affannava per lui, che sorrideva perché i poveri sedevano alla sua mensa, mentre il figlio suo, più povero e misero dell'ultimo dei mendicanti, errava di paese in paese in cerca di fortuna e d'aiuto. Nessuno, nessuno, gemeva Annessa sfregando la fronte contro la porta come la pecora verminosa contro il tronco della quercia. Nessuno, nessuno, soltanto la serva. Pensa a te, Paolo De Cherchi, disgraziato fanciullo. Ma che può una serva contro la padrona di tutte le creature umane, contro la sorte? Annessa, demonia! Gridò Ziu Zua, che da un quarto d'ora chiamava invano. Annessa, maledetta, accendi il lume! Ella entrò nella camera, ma non accese il lume. Un crepuscolo torbido penetrava dalla finestra, descrivendo un cerchio di luce grigiastra che arrivava appena ai piedi del lettuccio di Ziu Zua. Ma di tanto in tanto il bagliore dei lampi illuminava la camera e allora pareva che la figura del vecchio balzasse dall'ombra e poi ripiombasse di nuovo in un luogo di tenebre e di mistero. Annessa lo guardò a lungo con occhi allucinanti. Le pareva che egli fosse già morto, ma urlasse e imprecasse ancora. E da quel momento fu assalita da una specie di ossessione: avvicinarsi al vecchio e strangolarlo, farlo tacere finalmente, ripiombarlo per sempre nell'abisso d'ombra dal quale egli usciva ogni tanto urlando. Ferma sull'uscio di cucina, stese alquanto le braccia contraendo le dita, un gemito le uscì dalla bocca chiusa. Allora il vecchio credette che ella avesse paura del temporale e abbassò la voce. Annessa, ma accendilo questo lume, vedi che anche tu hai paura, vedi come mi hanno lasciato solo, chissà dove saranno, anche Rosa e fuori si bagneranno tutti. Ella ritornò in cucina e accese il lume. Ricordò che Paolo aveva preso con sé il cappotto e il pensiero che egli potesse coprirsi la confortò. Allora sospirò con un senso di sollievo, simile a quello che provano i bambini nel sentire che l'eroe della fiaba, sorpreso dall'uragano, ha trovato una casetta nel bosco, e rientrò col lume nella camera del vecchio. Il temporale infuriò fino a sera inoltrata, poi d'un tratto il cielo si rasserenò. Le ultime nuvole, come squarciate dall'ultimo tuono, s'aprirono, si lacerarono, scesero giù dietro la montagna. La luna, grande e triste, apparve sopra il bosco nel silenzio improvviso e nella melanconia della notte umida. Donna Rachele, la bimba, i vecchi nonni, che erano rimasti in chiesa finché non aveva cominciato a spiovere, rientrarono e andarono a letto subito dopo cena. Annessa rimase sola in cucina, dove aveva acceso il fuoco perché l'acqua inondava ancora la tettoia. Le pareva fosse d'inverno. Il chiarore del fuoco illuminava le pareti brune, tremolava sul pavimento umido, macchiato dall'impronta delle scarpe infangate di Don Simone e di zio Cosimo. E la sentiva brividi di freddo e sbadigliava nervosamente. Dopo aver rimesso in ordine la cucina, rientrò nella camera e accese il lumino da notte che mise per terra nell'angolo dietro l'uscio. Ed ecco che di nuovo la figura di zio Zua, assopito, ma più anelante e agitato del solito, parve sprofondarsi nella penombra. In punta di piedi, annessa, si avvicinò parecchie volte al letto, preparò la coperta sul canapè, ma non si coricò. Le pareva che avesse ancora qualcosa da fare. Che cosa? Non sapeva, non ricordava. Ritornò a sedersi accanto al focolare, si piegò verso la fiamma e rilesse il biglietto di Paolo. Poi lo bruciò. E per lungo tempo rimase immobile, coi gomiti sulle ginocchia e il viso tra le mani, fissando gli occhi sulla brace, fra le quali il foglietto nero e attortigliato come una foglia secca si trasformava lentamente in cenere. Qualcosa entro di lei si consumava così. La coscienza e la ragione l'abbandonavano. Un velo scendeva intorno a lei, la separava dalla realtà, la circondava d'ombra e di terrore. Ella non ricordò mai quanto tempo stette così, piegata su se stessa in uno stato di incoscienza. Sognava e lottava per svegliarsi, ma l'incubo era più forte di lei. Ci fu un momento in cui ella si alzò, si avvicinò all'uscio della camera. Il vecchio dormiva. Intorno alla tavola sedevano ancora i sei poveri e non mangiavano, non parlavano, ma la fissavano con occhi melanconici. Specialmente Niculino, il cieco, la guardava fisso coi suoi grandi occhi biancastri dalle grosse palpebre livide. Ella tornò al suo posto e chiuse gli occhi. Ma non cessò di vedere gli occhi lattiginosi e le palpebre gonfie del cieco. Più infelice di lui, che diceva di ricordare la luce e i colori come un sogno lontano della sua infanzia, ella non ricordava nulla dei suoi primi anni. Non una voce saliva per lei dalla profondità oscura della sua origine, non una figura si disegnava nel suo passato. Io non ho padre, né madre, né parenti, pensava nel suo delirio. I miei benefattori sono stati miei nemici. Nessuno piangerà per me. Io non ho che lui, come lui non ha che me. Siamo due ciechi che ci sosteniamo a vicenda, ma egli è più forte di me e se io cadrò, egli non cadrà. E le sembrava che realmente ella e Paolo fossero ciechi. Ella aveva gli occhi bianchi e le palpebre pesanti come quelle di Niculino e davanti a sé non vedeva che una muraglia rossa e infuocata il cui riverbero la bruciava tutta. Rumori misteriosi le risonavano dentro le orecchie. Credeva di sentire ancora la pioggia scrosciare contro la porta e il tuono riempire la notte d'un fracasso spaventevole. L'uragano assediava la casa. La prendeva d'assalto come una torma di grassatori e voleva devastarla. Poi una figura uscì dalla camera del vecchio, strisciò lungo la parete, sedette accanto al focolare. Ella non poteva volgersi, ma sentiva il fantasma al suo fianco. Sul principio le parve il cieco, poi d'un tratto si sentì sfiorare la mano da una mano dura e calda che le sembrò quella di Gantine. La mano salì fino al viso di lei, glielo accarezzò, le prese il mento, le strinse la gola. Davanti a lei balzò una figura gialla, con due occhi ardenti, una lunga barba grigia fra i cui peli umidi s'apriva una bocca nera e contorta. Era zio Zua! Egli la strangolava. Thank you.